Italia in controluce. In conduzione Daniele Biacchesi per quest'oggi 10 ottobre, l'appuntamento di Italia in controluce, l'approfondimento del nostro giornale radio. Lo Stato ha attaccato frontalmente la 'Ndrangheta, in poche ore vengono eseguite tre operazioni che mettono in ginocchio l'organizzazione criminale. Da una parte un assessore della regione Lombardia viene arrestato per aver comprato 4.000 voti alle 'Ndrine. Il comune di Reggio Calabria viene sciolto per contiguità con le mafie. È dunque la prima volta in un capoluogo. Poi una maxi operazione contro la cosca dei Fontana in Calabria. Iniziamo questo racconto di oggi. Io saluto Raffaella Calanda, buongiorno Raffaella, che è in diretta da Palazzo di Giustizia, e saluto anche il consigliere regionale Giulio Cavalli. Buongiorno. Allora, iniziamo questo ragionamento dallo scioglimento del comune di Reggio Calabria e cominciamo a chiedere due cose ai nostri ascoltatori al 349-238-6666. Se lo scioglimento del comune di Reggio Calabria è una vittoria dello Stato oppure l'affermazione che la 'Ndrangheta è riuscita ad infiltrarsi fino ai massimi livelli della pubblica amministrazione. E l'altra vicenda che riguarda invece l'assessore della regione Lombardia che viene arrestato su questioni di 'Ndrangheta, chiediamo ai nostri ascoltatori se a questo punto si deve dimettere Formigoni dopo le inchieste che lo coinvolgono personalmente e le indagini che coinvolgono importanti assessori e anche consiglieri della sua giunta e della sua maggioranza. 349-238-6666, vediamo allo scioglimento del comune di Reggio Calabria col ministro dell'interno Cancelliere. Non infiltrazioni, sono contiguità. Perché qui si parla di proprio contiguità con alcuni ambienti, ma riguarda questa amministrazione, non l'amministrazione precedente. È un provvedimento che abbiamo adottato con molta sofferenza. Le posso dire che io personalmente l'ho guardato e riguardato perché mi rendevo conto che poteva essere un momento anche significativo, perché non era mai accaduto un capoluogo di provincia, Reggio Calabria, e con la delicatezza della città, con tutte le componenti che ci sono, sapevo perfettamente che non era un gioco. E però noi abbiamo la volontà di restituire il paese alla legalità. Corrado da Como ci scrive che ha paura che le mafie siano ormai troppo pervasive e presenti dentro le istituzioni, crede che sia un'utopia sconfiggere le mafie in Italia, si dice rassegnato. Poi un altro, Roberto da Bergamo, dice che Formigoni non si deve dimettere perché è un bravo governante. Dunque 349-238-6666. Allora, Raffaella Calanda, hai seguito la conferenza stampa dei magistrati di Bruti Liberati, di Ilda Boccassini, con questa operazione che ha portato all'arresto l'assessore della regione Lombardia per aver comprato 4.000 voti alle 'Ndrine. Sì Daniele, e soprattutto ho letto le oltre 500 pagine dell'ordinanza di custodia cautelare che descrivono una Lombardia che ancora una volta è sempre più come la Calabria nei rapporti tra gli uomini delle cosche, gli uomini della politica e delle istituzioni, come in questo caso, con i rapporti con gli uomini di una ampia zona grigia che fa sempre di più da cerniera tra i referenti politici e i referenti militari delle cosche. Ebbene, è una storia di voti in cambio di soldi e in cambio di promesse e di favori, è una storia di voti per fare eleggere i propri uomini delle cosche all'interno del Pirellone o alla guida di comuni importanti dell'Interland milanesi. E questa è la storia che appunto emerge dalle oltre 500 pagine di questa ordinanza che il giudice ha firmato oggi, ma che aveva sul suo tavolo da oltre un anno, a segno anche della complessità anche di una decisione di questo tipo. E si tratta del quinto uomo della giunta Formigoni a finire in carcere, Domenico Zambetti, appunto l'assessore alla casa, che è stato arrestato insieme ai referenti lombardi di un cartello di cosche calabresi, e questo anche è importante notarlo, sia del versante ionico che del versante tirrenico, a conferma ancora una volta della presenza profonda, radicata e unitaria delle cosche calabresi in Lombardia. È una storia, come ricordavi, di preferenze, 4.000 i voti che l'assessore avrebbe avuto in cambio di 200.000 euro filmati e dati con consegnati in contante a questi portavoce referenti delle cosche in Lombardia. Un assessore Zambetti che è stato anche filmato mentre usciva in una cena elettorale con un altro uomo che è già processo per una storia di 'ndrangheta, Paolo Martino, un assessore che risulta, da quanto scrive il GIP nella sua ordinanza, anche sotto il ricatto dei boss, perché d'altra parte, come anche Ilda Boccassini nella conferenza stampa ha detto, se un uomo delle istituzioni accetta consapevolmente i favori delle cosche, a quel punto diventa il loro referente e quindi non riesce più a svincolarsi. Da questa grande storia emergono poi anche una serie di altri episodi, come i 500 voti che altri uomini delle cosche avrebbero raccolto per Sara Giudice, ex consigliere regionale, nel momento in cui ha tentato di farsi eleggere anche alla Comune di Milano nelle ultime elezioni, attraverso il padre che era alla guida di una società partecipata milanese. E questo è un elemento importante, perché anche un'inchiesta di oggi di Reggio Calabria dimostra come le società partecipate siano la nuova frontiera delle infiltrazioni economiche delle cosche, e in cambio aveva promesso appunto appalti anche a Cosenza. Però pare che in questo caso gli uomini delle cosche si siano presentati a Vincenzo Giudice sotto falso nome, quindi in un certo senso. Certo. Ecco Raffaella, siccome sono arrivate centinaia di messaggi, allora cominciamo a leggerli, perché noi abbiamo fatto due domande, uno sullo scioglimento del Comune di Reggio Calabria e l'altra in cui chiediamo se Formigoni si deve dimettere. Alcuni dicono che è un vero successo della giustizia quello che è accaduto a Reggio, lo dice Nando da Cagliari. Enzo da Milano parla chiaramente di dimissioni per Formigoni. Un altro invece da Bologna, Davide, dice: non scherziamo, ce ne fossero di governatori come Formigoni. Per due volte un ascoltatore che non firma ci ricorda che anche in provincia di Reggio Emilia siamo invasi dall''ndrangheta, si chiede come mai nessuno muove un dito perché c'è il PD, dice lui. Io dico di no, perché ci sono decine di inchieste e ci sono anche giornalisti intorno a Reggio Emilia e Modena che sono sotto scorta soltanto per avere scritto di queste cose. Sarebbe molto utile, dice Sissi da Firenze, se quando date questo tipo di notizie indicaste l'appartenenza politica, per quanto riguarda sia il Comune di Reggio Calabria che Popolo e Libertà, che l'assessore della Regione Lombardia sono del Popolo e Libertà. Vittoria dello Stato, dice Michi, non si deve dimettere Formigoni, giudicheranno gli elettori. E qualcuno come Gregorio, credo da Catanzaro o da Cosenza, si dovrebbe dimettere anche l'ex sindaco di Reggio Calabria, l'attuale presidente della regione Calabria, Scopelliti. Giulio Cavalli, consigliere regionale, cosa farà l'opposizione, cosa state facendo? Ma innanzitutto c'è il dato politico. Il dato politico è che non è mai successo in Regione Lombardia che ci fosse una persona di così alto profilo istituzionale che si prende il concorso esterno in associazione mafiosa. È un dato politico importante perché, come diceva molto bene prima Raffaella Calandra, noi abbiamo avuto l'operazione Infinito che ci ha raccontato, diciamo, di quella fascia militare. In molti seguivamo con attenzione, ci aspettavamo di sapere quale fosse quella zona grigia. Oggi il terzo livello, con questo nuovo pezzo di inchiesta, ha un nome e un cognome. Un nome e cognome che viene facile pensare che non sia un caso singolo, ma sia semplicemente un spigolo che si è riusciti a trovare di un sistema. E allora a questo punto noi come opposizione sicuramente non parteciperemo alle commissioni e non parteciperemo nemmeno ai consigli regionali, alle prossime sedute dei consigli quindi, regionali. Quindi possiamo annunciare che, ma tutta l'opposizione? Tutta l'opposizione, sì. Questo è quello che è stato deciso poco fa? Sì. Sì, abbiamo fatto una riunione pochissimi minuti fa, abbiamo deciso che non parteciperemo assolutamente all'attività del Consiglio e soprattutto noi abbiamo 27 dimissioni già firmate, che siamo ovviamente in opposizione, ci servono 14 firme per far cadere il Consiglio regionale. Io la domanda non la porrei tanto a Formigoni, ti dico la verità, io la domanda la porrei alla Lega, perché il ministro Maroni, che sull'antimafia e sull''ndrangheta ha costruito, secondo me, con un po' anche di populismo, la propria figura, mi sembra strano che il ministro dell'interno di ferro che fa arrestare i latitanti possa accettare di sostenere una giunta con episodi di questo tipo. Attenzione, qui non si parla più di infiltrazione di 'ndrangheta all'interno della politica, qui è la politica che scientemente decide di infiltrarsi nell''ndrangheta e di ottenere favori elettorali e preservazione. Grazie Giulio Cavalli, qui che ci ha dato una notizia. Dunque, l'opposizione in Regione Lombardia non parteciperà né ai lavori delle sedute del Consiglio, neppure quelle delle commissioni. Il problema sono i calabresi, non la Lombardia, dice Roberto Manzoni. Formigoni a casa, un altro ascoltatore. Chiunque abbia provato a combattere la mafia è sempre stato lasciato solo dallo Stato, dice Piero da Arezzo. Molti dicono, chiedono le dimissioni in Formigoni. Uno dice è una vergogna, un discredito che cade su tutte le istituzioni e travolge anche i pochi onesti. Paola da Verona. Gli 'ndranghetisti sono ormai ovunque, può essere un medico arrivato a riscoprire un determinato ruolo, può essere un funzionario di banca, un alto dirigente della pubblica amministrazione. Questi sono gli 'ndranghetisti della seconda generazione. Vi ricordo tutti i giorni, ascoltate Controluce a quest'ora, su Facebook, pagina e gruppo, Twitter, Controluce @radio24.it.